America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ieri giornata campale per gli Stati Uniti perché si sono pagate le tasse. Abbiamo saputo quanto hanno pagato Barack e Michelle Obama e soprattutto quanto hanno guadagnato: 5,5 milioni di dollari, 1,8 milioni di dollari pagati in tasse. Hanno donato 329 mila dollari a 40 diverse associazioni di beneficenza. Beh, in questi 5 milioni di dollari, anzi 5 e mezzo, ci sono 1,4 milioni di dollari di premio Nobel, che sapevamo che il presidente aveva incassato, ma ci sono anche i diritti sui libri che ha venduto Barack Obama, libri di grandissimo successo. Dunque, un pagamento fiscale non da poco. In questa giornata di ieri ci sono state anche le proteste, sentiamole. No more rights! No more rights! Ecco, nel giorno in cui Barack Obama paga tasse record per un presidente americano, perché sono davvero elevatissime, il presidente George W. Bush aveva avuto un reddito di appena 700 mila dollari nel suo ultimo, penultimo anno di mandato, i Tea Parties sono scesi sulla capitale per cercare di coagulare la protesta americana contro l'aumento fiscale. Beh, il risultato è stato un po' povero, intanto perché l'immagine del presidente negli ultimi tempi è cresciuta molto più di quello che ci si potesse aspettare, e poi perché il messaggio dei Tea Parties suona un po' in qualche modo déjà vu. Loro sono andati su Washington per marciare contro tutto, contro il governo federale, contro le tasse ovviamente, contro Barack Obama che secondo loro porta l'America ai margini del disastro, contro la riforma sanitaria, contro la corruzione del Congresso sotto la pressione delle lobby. Ecco, la curiosità però della giornata di ieri è che abbiamo avuto da un sondaggio del New York Times un po' l'aspetto demografico di quelli che fanno parte del movimento dei Tea Parties. Beh, in qualche modo intuitivamente potevamo aspettarci che fossero giovani, arrabbiati, ideologicamente agguerriti, con redditi bassi, affamati dunque, affamati di tutto, la nuova linfa del Partito Repubblicano. E invece no, i Tea Party è fatto da classe media, età del militante tipico fra i 45 e 50 anni, in genere sono abbastanza ricchi, perbenisti, il 92% crede che Obama sia socialista, il 25% che aiuti solo gli afroamericani contro l'11% nazionale. Non solo, sono antistatalisti, però non rinuncerebbero mai al Medicare o alla pensione e tutto sommato ritengono che le tasse non siano poi così esose. Dunque un movimento un po' strano, un movimento che guarda alle elezioni di novembre ma che non riesce a trovare un vero leader, resta così un movimento. Ci hanno provato questi signori del Tea Parties a ingaggiare Sarah Palin, ma non ha funzionato. Sentiamola la signora Palin. So the people in Boston and all across the US were sending a message to Washington that come November that big government, big debt, Obama, Pelosi, Reid spending spree. Eccola, ex governatore dell'Alaska, l'appassionaria dell'Alaska, il sex symbol con gli occhiali da bibliotecaria, giubbotto di pelle rosso NASCAR, che in qualche modo è riuscita a mobilitare il popolo dei Tea Party, però lo ha fatto a colpi da 100.000 dollari per apparizione, simpatica, forte, determinata. Però sempre da quel sondaggio emerge che i protagonisti del movimento non ritengono che abbia la maturità per guidare il paese. Di nuovo dunque un messaggio tutto sommato abbastanza convenzionale che viene da questi Tea Parties. Ecco, il distacco però dalla signora Palin deriva dal fatto che si sono accorti che la sua, più che essere una passione ideologica, è una passione per il lusso. Abbiamo saputo che il procuratore della California, Edmund Brown, ha aperto un'inchiesta per capire come mai la California State University Stanislaus, che è un'università pubblica, finanziata dunque coi soldi del contribuente, ha pagato 75 mila dollari la Sarah Palin per tenere una conferenza. Non solo le ha dato alloggio sempre in base a un contratto firmato dalle parti, a una suite presidenziale costosissima, circa 2.000 dollari al giorno, e le ha dovuto dare un biglietto di prima classe a tariffa piena. Dunque non proprio il leader che i Tea Parties si aspetterebbero. Ma c'è un'altra delusione che porta giù così il prestigio di questo movimento. Uno dei grandi eroi della ribellione dei Tea Parties, Scott Brown, che riuscì a sconfiggere i democratici nella corsa per il seggio che fu di Ted Kennedy in Massachusetts, era diventato con questa vittoria il vessillo della nuova destra, una destra polarizzata, estrema, inamovibile. Però le notizie più recenti ci dicono che anche Brown, personaggio molto interessante, l'ho conosciuto non tanto tempo fa a Washington, devo dire materiale presidenziale in qualche modo, beh, anche il signor Brown si sta muovendo al centro, cosa che naturalmente ha deluso i signori del Tea Parties, rimescola le carte in previsione delle elezioni di novembre e apre la partita. Riuscirà Barack Obama a perdere meno seggi di quello che ci si aspetta? Secondo me sì, la partita comunque resta aperta e i Tea Parties sono in difficoltà. By doing that, we will ramp up robotic exploration of the solar system, including a probe of the sun's atmosphere. Esplorazioni robotiche dell'atmosfera solare, l'uomo su Marte, un atterraggio su Marte. Ieri Barack Obama è passato a un altro settore su cui promette, quello spaziale, andato alla NASA in Florida e ha pronunciato un discorso importante in cui ha cercato di recuperare l'iniziativa per un settore da cui sembrava che l'amministrazione e gli Stati Uniti in genere si stessero un po' disaffezionando. Sentiamo cos'altro ha detto. We start by increasing NASA's budget by $6 billion over the next 5 years. Il presidente promette 6 miliardi di dollari di budget, avete sentito il forte applauso che ha accompagnato questo suo annuncio, promette nuove tecnologie, promette ricadute economiche sull'economia per molti miliardi di dollari, di nuovo conferma che si andrà su Marte e non è interessato alla Luna, cancella il Constellation Plan di George W. Bush che invece prevedeva un passaggio intermedio verso la Luna, non ci saranno più i vecchi shuttle, ci saranno delle nuove navicelle, si costruirà una piattaforma ancora più strutturata e organizzata, tecnologicamente avanzata, per ospitare l'uomo nello spazio. Questo è il progetto di Obama, un progetto valido. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. La voce che avete sentito, devo dire, mi dà una certa emozione riascoltarla ancora adesso, è quella di John Kennedy quando il 25 maggio 1961 annunciò al Congresso che gli Stati Uniti avrebbero portato un uomo sulla Luna entro 10 anni. Poi ci fu l'uccisione del presidente, ma la missione andò avanti e l'America portò un uomo sulla Luna il 20 luglio del 1969, meno di 10 anni. Dunque io direi che vale la pena di soffermarsi un po' su questo messaggio mediatico del presidente Obama, perché ci sono state critiche alla vigilia di questo suo discorso. Neil Armstrong, ad esempio, il primo uomo a arrivare sulla Luna, aveva criticato la nuova strategia spaziale del presidente e aveva scritto una lettera aperta, firmata anche da Jim Lowell e Eugene Cernan, altri due astronauti, in cui affermava che in base a questi progetti gli Stati Uniti erano destinati a scivolare nella mediocrità. Ha ragione Obama, che dice che gli Stati Uniti vanno avanti, restano sicuramente sempre impegnati, oppure l'astronauta Neil Armstrong. Io farei un semplice calcolo e poi sceglierete voi. Quando Kennedy parlò, l'America riuscì poi a portare l'uomo sulla Luna in 8 anni. Da allora, da quando l'uomo è sbarcato sulla Luna, sono passati 40 anni, anzi 41, e Obama ha promesso che su Marte ci si arriverà forse alla metà degli anni 30, cioè diciamo, se andrà tutto bene, fra 25 anni, 25 più 40, parliamo di 65 anni. Dunque un confronto, 8 anni per andare dalla Terra alla Luna, 65 dalla Terra a Marte. E il volo commerciale nello spazio che avrebbe dovuto consentirci di andare da Roma a Tokyo in 2 ore oppure da Milano a New York in 1 ora, beh, resta fantasia. Beh, forse ha ragione Armstrong. O forse, senza il fiato dell'Unione Sovietica alle spalle, perché allora c'era quell'enorme concorrenza, si corre un po' meno. Forse davvero la concorrenza serve. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Quincy Jones, artista fantastico, produttore straordinario, produttore di Thriller e Bad di Michael Jackson e di mille altri successi, ha voluto riunire i migliori rapper per dare vita a un disco, un nuovo disco, Q, Soul Boss Nostra. In questo album ci sono appunto le migliori voci black del mondo e interpretano in una nuova chiave i maggiori successi scritti da Jones. In onore del nuovo programma spaziale di Obama e di Quincy Jones, ascoltiamo una sua canzone, Walking in Space. Those loved blinds pulled, blinds pulled. Light's slow. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.